rotte antimafia. Partiamo da tre modalità operative che esse stesse possono essere considerate principali rotte antimafia: responsabilità, condivisione e continuità. In questi ultimi due anni, gli anni della pandemia, si sono manifestati ed accentuati due importanti fenomeni. Da un lato, un aumento della presenza mafiosa, della diversificazione delle sue modalità operative, della corruzione, dei fenomeni corruttivi. Sono aumentati i principali reati spia, quelli che ci indicano la possibile presenza di infiltrazioni mafiose. L'aumento dell'usura, così come sono aumentate tutte le segnalazioni finanziarie, sono aumentati di circa il 20% nell'ultimo biennio, nel biennio della pandemia rispetto agli anni precedenti. Insomma, ci sono una serie, così come è aumentato il traffico delle sostanze stupefacenti. Insomma, sono tutti elementi che confermano quanto ho detto in premessa, cioè l'aumento della presenza mafiosa. Quindi allora, da un lato c'è un aumento della presenza mafiosa, dall'altro una forte riduzione dei luoghi della socialità. Numerosi presidi, soprattutto giovanili, ma non solo, hanno nei fatti in questi due anni sospeso le loro attività, così come numerose basi associative sono state costrette a chiudere, basi culturali che promuovono attività culturali, sportive, ambientali, sociali, hanno di fatto chiuso le loro, ridotto fortemente le loro attività e quindi fortemente ridotta di conseguenza la possibilità di relazione fra le persone, di confronto, di proposte fra le persone. Difficoltà riscontrate anche nel mondo scolastico, i ragazzi a casa, e quindi la socialità fra di loro, la possibilità di condividere esperienze fortemente diminuita, ma anche nel mondo del lavoro. Lo smart working ha sicuramente ridotto, se non eliminato quasi del tutto, la possibilità di confronto, di relazione e di confronto sulle cose, sui problemi da parte dei lavoratori. Quindi questi sono i due elementi. Ecco, quindi, con responsabilità, la prima dei tre elementi che sottolineavo, la necessità per contrastare questi fenomeni che ognuno di noi individualmente o in forma collettiva realizzi azioni finalizzate a riattivare relazioni, sedi di confronto, a realizzare iniziative che aiutino a conoscere e contrastare la diffusione della cultura mafiosa e delle vecchie e nuove pratiche mafiose, che ci aiuti a fare memoria, a rinnovare impegno, che favorisca infine la promozione dei diritti e della dignità delle persone. Sono queste le rotte antimafia che abbiamo ipotizzato. Rotte geografiche che ci consentiranno di raggiungere e collegare fra di loro capoluoghi di provincia ed inoltre numerose, tantissime altre località distribuite nella regione durante tutto l'anno. E rotte tematiche, quelle che ci consentiranno di mettere testa e cuore per affrontare al meglio il compito che ci siamo dati. Ad esempio, il fatto che, lo vedrete anche nel progetto, si parla di illuminare le periferie. La pandemia, che ha avuto conseguenze devastanti dal punto di vista economico, sociale, ma anche appunto relazionale, come voi sottolineate nel progetto, cioè la sospensione della socialità, il venir meno di alcuni luoghi di incontro, di confronto, ecco, l'illuminazione di questi spazi, il presidio di questi spazi, è esattamente il contrario dell'abbandono che favorisce l'infiltrazione delle mafie, per come le conosciamo, anche volersi approfittare della situazione pandemica per insinuarsi con i loro ricatti. Il modo migliore per non lasciare un centimetro alle organizzazioni mafiose è non lasciare un centimetro alla marginalizzazione dentro alle comunità e anche nei territori stessi. Quindi questa idea che le rotte antimafia percorrano non solo i grandi centri urbani, ma le nostre aree interne, le nostre aree montane, le aree dove appunto spesso si ha una percezione di distanza, no? Maggiore rispetto anche semplicemente al proprio accesso ai servizi, alla risposta pubblica. La carovana che partirà e attraverserà tutte le province dell'Emilia-Romagna ha un altro aspetto che a noi convince moltissimo, e cioè prevede dei momenti che sono dalla mattina nelle scuole, ai pomeriggi nei luoghi di lavoro, alle sere nei centri culturali, artistici, di socialità, ricreativi, che peraltro ne hanno un gran bisogno anche di ripartire dopo gli anni che hanno vissuto. Quali sono i luoghi dove fare consapevolezza della infiltrazione mafiosa e di come si muovono le organizzazioni criminali? Sono le scuole, sono i luoghi di lavoro e sono i luoghi della cultura e della socialità. Cioè proprio questo sguardo trasversale è un aspetto di rotte antimafia che troviamo quello essenziale proprio per moltiplicare i nostri presidi di attenzione, naturalmente in un contesto in cui la regione è dalla vostra parte, continuerà ad esserlo non solo con gli strumenti del testo unico, ma appunto anche, come in questo caso, con gli strumenti che vogliono valorizzare la capacità delle associazioni e organizzazioni di fare rete tra di loro e quindi di restituirci un'immagine molto forte.